versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta qui dagli studi di Milano, mamma mia che caldo. Oscar Giannino vi saluto e vi ringrazio come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast, o un po' il fiatone, che volete farci, perdonatemi. E la giornata ha una novità politica, ma non parliamo di questo, che è maturata, filtrata dai resoconti della direzione di ieri, ma poi del PD, ma poi è diventata ufficiale, per così dire, cioè ci sono le anticipazioni del libro in uscita del segretario del PD Matteo Renzi. C'è stato un post della comunicazione ufficiale del PD che è comparso in rete, poi è scomparso, ma che comunque dice chiaro, cioè annuncia una svolta esplicita del PD sul tema profughi immigrati, nella quale il segretario del PD dice: numero chiuso, non abbiamo alcun dovere umanitario di accogliere tutti i profughi. Testuale, perché sarebbe un disastro sociale e alla fine anche economico. Quindi una svolta radicale del PD, come vedete. Nella indiscrezione della direzione del PD di ieri c'era anche, ma questo l'avete già trovato sui giornali oggi, però non c'era questa frase così esplicita del numero chiuso, quindi la richiesta al governo Gentiloni è di indurire ulteriormente la posizione, cioè, anche se da Tallinn non viene l'ok al reindirizzo verso altri porti, il segretario del PD chiede al governo di operare comunque, anche in assenza di una modifica degli accordi delle due missioni europee. Due, a questo si erano aggiunte già le prime indiscrezioni della direzione a porta chiusa di ieri, nelle quali, l'avete trovato sul giornale di oggi, Renzi diceva: o così o altrimenti blocchiamo la rata annuale dei nostri contributi all'Unione Europea. Quindi uno scontro totale, radicale. Lascio a voi la prima opinione, il primo giudizio su una svolta di questo tipo e sul modo in cui viene comunicata. Certo, per il governo Gentiloni sono cavoli amari, nel senso che si trova dietro un forcone puntato questa volta dal leader del PD. Vedremo domani mattina, nei prossimi giorni, tutti i particolari, quanto sia condivisa, ma insomma ieri la direzione è stata condivisa anche se la minoranza non ha votato. Certo è una svolta, se il governo la fa propria in questi termini, che alimenterà scontri e polemiche. Non tanto in Italia, questo prevedibile, insomma, tra forze politiche, ma ci mette su una linea che ha bisogno di molta determinazione da parte del governo, perché è del tutto paragonabile all'atteggiamento che i paesi del centro Europa assunsero nei mesi successivi a quelli della braccia aperta dichiarata da Merkel verso coloro che venivano con lo status che riconosceva loro la facoltà di chiedere asilo, quindi i siriani, gli afghani e così via. Vedremo, certo è uno sviluppo di grande, grande peso. Ma oggi parliamo del trasporto pubblico locale. Perché parliamo del trasporto pubblico locale? Cerchiamo di capire, nel disastro di questo settore italiano, che è il settore più disastrato di tutte le municipalizzate pubbliche, e mettiamo la testa su quello che avviene da una parte nella grande città italiana che ha la società migliore di trasporto pubblico locale, cioè la TM, cioè Milano, e dall'altra quella che ha la società peggiore per risultati e performance, cioè Roma con l'ATAC. La domanda intorno a cui ci confronteremo con i nostri ospiti è: meglio, viste le condizioni accumulate di disastro a Roma, e tenuto conto invece delle condizioni molto migliori della gestione, della patrimonializzazione, dei risultati di Milano, ma è il caso di procedere a gare dovunque per l'affidamento del servizio? Questa domanda ovviamente da parte mia ha un sì grande come una casa come risposta, ma io sono una minoranza. Il punto vero però è che oggi bandire una gara significa inevitabilmente spalancare la porta più che un privato a Ferrovie dello Stato, che non fa mistero, ne abbiamo parlato più volte in altre trasmissioni che conduco da qualche mese a questa parte, con Mazzoncini, il nuovo capo delle Ferrovie dello Stato, di voler subentrare, entrare il più possibile dovunque nel TPL locale, o con gare, oppure laddove non sia possibile con gare, assumendo quote, partecipazioni e controllo di imprese pubbliche locali. A Milano, oggi, per chi è milanese, vede le pagine di cronaca dei giornali milanesi, Sala viene attribuito dell'opinione: sì, meglio procedere a gara. La sua maggioranza lo frena molto. Lo frena molto, perché già sulla vicenda ingresso di Ferrovie dello Stato in una delle tratte della metropolitana, la M5, le forze politiche della sinistra e della maggioranza di Sala hanno capito e non apprezzano molto l'idea che Ferrovie dello Stato venga, tra virgolette, poiché ATM ha un bilancio inutile, a fare pesare la sua forza di grande player italiano e internazionale. Dall'altra parte c'è la condizione di Roma. La condizione di Roma è su tutt'altro da giudicare, su tutt'altro versante. Anche lì Ferrovie dello Stato è pronta, Mazzoncini l'ha detto mille volte. Lì il problema è che siamo in presenza di una società i cui andamenti di gestione, i cui risultati sono spaventosi. Sono spaventosi, e un bel po' di numeri si possono trarre, per chi volesse approfondire, dall'aggiornamento annuale ogni anno, da qualche anno a questa parte, Mediobanca, ARS di Mediobanca, la società di ricerca di Mediobanca, rilascia un rapporto sulle maggiori partecipate degli enti locali italiani, comuni, province e regioni. Il 5 luglio, lo trovate sul sito di Mediobanca, è uscita la versione 2017, che è relativa alle 84 maggiori imprese controllate dagli enti locali italiani in tutta Italia, nei diversi settori, quindi acqua, energia, trasporto pubblico locale, appunto, servizi, aeroporti, e è relativa ai bilanci 2015. Non 2016 ma 2015. Ecco, troverete in questo report certificata l'analisi, appunto, del disastro tra tutti i settori. Quello maggiormente problematico è appunto quello del TPL, complessivamente in tutta Italia, che ha assorbito risorse pubbliche tra il 2011 e il 2015 per 16,8 miliardi. E io, prima di presentarvi gli ospiti, per sapere loro come la pensano, gare o non gare, sia dove si va bene nel TPL, sia dove si va malissimo, come a Roma, ci tengo solo a darvi qualche cifretta in più. Perché, ripeto, la condizione delle diverse società è molto diversa, quindi è completamente sbagliato far di tutte erbe un fascio. E quindi mi limito a dirvi questo. Prendiamo tre società diverse di trasporto pubblico locale di tre grandi città italiane, Milano e Roma, di cui parliamo oggi, ma anche Napoli. Allora, se guardiamo la cosa in questa maniera, ecco, vediamo che negli ultimi 4 anni chi ha perso di più in termini cumulati è appunto l'ATAC di Roma, perché l'ATAC di Roma in 4 anni ha perso la bellezza di 765 milioni e si trova in una condizione nella quale i suoi soci molto difficilmente riusciranno, vista la condizione delle manutenzioni, del parco circolante che oramai è in percentuale elevatissima, fermo tutti i giorni e così via, a ripatrimonializzare in maniera tale da consentire un vero turnaround industriale. Quindi il problema è: gara significa inventarsi qualcosa per la continuità dell'ATAC, ma soprattutto fare un punto e a capo rispetto a una società le cui condizioni finanziarie e patrimoniali sono oggi al pre-default conclamato. Però anche dal punto di vista napoletano, la NM di Napoli, che è una delle società del trasporto pubblico urbano insieme all'EAEV, cioè l'ente acquedotto Volturno, che è quello che gestisce la ferrovia della grande Napoli, la Cumana, la Circumflegrea e la Vesuviana, anche qui siamo in presenza dei peggiori risultati cumulati. Cioè, subito dopo l'ATAC ci sono in 4 anni le 122 milioni di perdita della NM di Napoli e i 316 milioni della EAV sempre di Napoli, quindi sommati siamo alla bellezza di 438 milioni. Ecco, questo per dare l'idea. Queste sono proprio le peggiori in Italia dal punto di vista dei risultati. Se andiamo a vedere, il problema non è solo quello dei risultati di bilancio. Per esempio, andiamo a vedere i trasferimenti quanto rispetto ai trasferimenti queste società sono in grado, rispetto ai loro costi poi fissi, di ricavare dai trasferimenti sussidiati o invece da attività proprie, quindi con ricavi di mercato attraverso le tariffe. Allora, pensate che l'azienda di trasporto, l'ANM napoletana, riceve più o meno 57.400 euro di trasferimenti annuo per ognuno dei suoi 2.683 dipendenti, che hanno un costo medio lordo di 44.800 euro a testa. Ciascuno di questi dipendenti a Napoli crea un valore aggiunto di 32.600 euro. Persino l'ATAC a Roma fa meglio, con 39.500 euro di valore aggiunto pro capite per dipendente medio. La TM milanese fa 58.000 euro di valore aggiunto medio l'anno per dipendente. Voi capite che tra 32.600 e 58.000 euro di valore aggiunto medio pro capite per dipendente c'è una forbice tale che descrive appunto il pre-default napoletano e romano rispetto a un'azienda che invece è gestita appunto creando anche utili. Se fate il rapporto, cioè la percentuale del costo sul valore aggiunto, vedrete che nel caso della ANM di Napoli è del 140%, per l'ATAC di Roma è del 113%, per la TM milanese è dell'89%. Ecco, allora per capirci, come vedete sono incomparabilmente diverse le capacità di generare risorse proprie, cioè la forza relativa. Ma il problema in tutti e due i casi è quello: procediamo a concessione di trasporto pubblico diretto o ci apriamo alle gare? Ecco, su questo punto, e fatti questi pochi numeri tanto per darvi qualche idea, cominciamo subito con il nostro primo ospite, che conoscete, insegna finanza pubblica all'Università Bicocca di Milano, però ha una specializzazione e segue da molti anni con grande attenzione i temi del trasporto pubblico nel nostro paese, non solo del trasporto pubblico locale, all'Italia e così via. Il professor Ugo Arrigo, buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio a voi. Lei che dice? Beh, la situazione è interessante e complessa, però per il trasporto pubblico locale, a differenza dell'Italia, noi sappiamo esattamente le cause per cui non funziona, per cui perde, eccetera. Quindi, avendo una diagnosi del paziente, si può anche pensare a mettere in piedi una cura. Occorre capire se in questa cura rientrano le gare, non rientrano, che peso possono avere. Io sono storicamente un grande fautore delle gare, e devo dire che personalmente sono anche un seguace del modello svedese. In Svezia nel trasporto locale, nazionale, eccetera, non si concede un sussidio, un trasferimento di neanche una corona se non è stata fatta una gara per assegnare il servizio. Quindi il principio è le imprese che richiedono trasferimenti pubblici devono guadagnarseli vincendo una gara per la concessione del servizio. E quindi questa cosa qui ha funzionato molto bene, ha funzionato in molti altri paesi e quindi potrebbe essere ragionevolmente copiata anche da noi. Poi il problema però è chi partecipa alle gare. Noi abbiamo un attore molto grande che è pronto a presentarsi, che è Ferrovie dello Stato, forse Trenitalia. E questo è un caso molto interessante di un soggetto che è sicuramente parecchio migliorato nel corso del tempo, che è molto efficiente nel trasporto a lungo raggio, ma che ha risorse economiche tali da sostanzialmente sopravanzare tutti gli altri che possono partecipare a queste gare. E quindi questa cosa qui da valutarsi con una certa attenzione. Valutare con attenzione. Ripeto, siamo in presenza, nel caso per esempio napoletano, di una azienda che raccoglie solo il 24,8% dei suoi costi operativi con ricavi non sussidiati, l'ATAC di Roma 34,7%. Il doppio più o meno la TM di Milano. Allora, a Roma in queste settimane e in particolare in questo fine settimana c'è un'iniziativa pubblica assunta esattamente sul tema gara, indizione della gara, caro sindaco Raggi e cara giunta del Campidoglio, per il trasporto pubblico locale a fronte della condizione dell'ATAC. È un'iniziativa ideata, condotta da Riccardo Maggi, che è stato il consiglio comunale per i radicali italiani a Roma, che più volte abbiamo chiamato sui problemi di Roma per aiutarci a capire anche bilancio e partecipate a Roma. Grazie di essere con noi, Riccardo. Grazie a voi, buon pomeriggio. Spiegaci un secondo questa iniziativa. In questi giorni i romani interessati come possono rendersi attivi? L'iniziativa a cui abbiamo dato il nome significativo di Mobilitiamo Roma è un'iniziativa referendaria, si tratta di proporre attraverso la richiesta da parte dei cittadini, servono 29.000 firme, l'1% della popolazione residente, appunto la messa a gara del servizio, della gestione del servizio di trasporto pubblico locale che attualmente viene affidato in house a un'azienda controllata completamente dal comune, che è ATAC, di cui voi avete già parlato. A nostro avviso la gara servirebbe proprio a rompere questo rapporto perverso che si è creato tra il comune che affida il servizio e l'azienda che dovrebbe erogarlo e che non ha mai negli anni rispettato il contratto di servizio, non ha mai raggiunto i livelli adeguati previsti da questo contratto. Cosa dovrebbe fare di fronte a questa inadempienza di un'azienda il committente? Dovrebbe applicare delle sanzioni, ma come fa ad applicare delle sanzioni a se stesso, a un'azienda che poi ogni anno deve ricapitalizzare per decine e decine di milioni di euro? Qui sta il nocciolo della questione, almeno per la situazione romana, e noi abbiamo pensato di aggredirlo in questo modo. Insomma, il problema di ATAC, considerando le cifre che avete fatto in apertura, non è che è fallita, il problema è che non si fa fallire, cioè i danni che continua a produrre una situazione di questo tipo. La gara aiuterebbe anche perché ridarebbe al pubblico il ruolo fondamentale che è quello di programmare il servizio, cioè quando si costruisce un bando di gara si deve fare lo sforzo di capire qual è la domanda di quel servizio che viene dai cittadini, cosa che ormai qui non si fa più da molti anni. La programmazione strategica e il controllo, questo è quello che deve fare il pubblico, per il resto vinca il migliore. Allora, nel frattempo do una notizia agli ascoltatori. Fitch, che è una delle grandi agenzie di rating internazionale, ha comunicato di aver ritirato nel marzo 2017 il giudizio su Roma Capitale, che nel 2016 aveva un outlook stabile, in quanto ha precisato la città, cioè il Campidoglio, la giunta, ha smesso di partecipare al processo di rating. In altre parole, non dà più alle agenzie di rating le informazioni necessarie per elaborare il giudizio sui rating e quindi non c'è più copertura da parte degli analisti. Sono molto contrario io a queste decisioni, che vengono vendute come un non ci sottoponiamo al giudizio improprio da parte delle agenzie di rating. In realtà è una disciplina rafforzata, quella sulla credibilità, trasparenza dei conti. Beh, comunque non spetta a me giudicare, ve ne informo. Però torniamo tra un minuto, perché a questo punto la domanda diventa dei nostri ascoltatori romani. Caro Maggi e caro professor Arrigo, ma cosa succede a quel punto se una società è in condizioni di default dei suoi dipendenti eccetera eccetera, se poi perde anche la gara? Tra un minuto, intanto traffico. La versione di Oscar. Ora, torniamo in diretta. Gare o no a Milano, a Roma, a Napoli, le cui aziende di trasporto pubblico locale sono in condizioni diverse, Napoli e Roma per default conclamato, ma Milano no. A Milano la maggioranza di Sala dice a Sala: noi la gara non solo non la vogliamo, non vogliamo neanche quotare in borsa l'ATM, perché deve rimanere il 100% del comune, cioè nella maggioranza è chiaro che l'idea è il trasporto pubblico locale resta a noi, facciamo anche gara internazionale, ci mancherebbe che ci indeboliamo a Milano. Cosa succede poi, professor Arrigo, se a Milano, in condizioni di un'azienda insomma relativamente sana, ma a Roma, dove ce n'è una in pre-default, se poi perdono la gara, professor Arrigo? Quesito interessante, ma d'altra parte, voglio dire, essendo l'azienda di Milano molto buona, gestita molto bene, con grande efficienza qualitativa, con un livello di utilizzo giornaliero assolutamente incredibile ai livelli delle grandi metropoli europee, beh, dovrebbe essere pronta per partecipare a gare, no? Non solo, ma dovrebbe essere anche un'azienda che è in grado di uscire su altre realtà europee, partecipare a gare internazionali, gestisce già in maniera molto efficace il metodo di Copenaghen. Però ovviamente se vogliamo andare a partecipare a gare altrui in altri paesi dobbiamo anche accettare gare a casa nostra, e quindi mi pare che vi sia una norma europea che vieta appunto la partecipazione a gare se si ha avuto un affidamento diretto a casa propria. nell'ottica del mercato, della internazionalizzazione, eccetera, io vedrei anche bene una quotazione di ATM, o almeno di una sua parte. Ad esempio, secondo me, il metro di Milano, con il tasso di utilizzo giornaliero che ha, è assolutamente un qualcosa che produce, che è in grado di produrre utile, quindi può quotarsi senza bisogno di avere trasferimenti pubblici, i quali invece sono necessari per il bus, per il tram e per il filo. Certo, sono attività di tipo diverso, chiarissimo. Roma è diversa, però Roma, essendo problematica, ha ancora più bisogno delle gare. Ovviamente bisogna disegnarle bene per evitare che poi producano più problemi di quanti non ne risolvano. La mia domanda è: ma può Trenitalia partecipare a gare sul TPL avendo essa stessa affidamenti diretti, esatto, e non avendo vinto i contratti nazionali? Infatti, anche gare, secondo me c'è un problema di questo tipo in capo a FS Trenitalia, però siamo in minoranza a pensarla così. Riccardo Maggi, ai romani, io so che nella raccolta di firme ci sono stati anche problemi, perché i dipendenti dell'ATAC, insomma, vi accusano di volere buttarli per strada. Che risposta si dà alle loro preoccupazioni con la gara? Ma si dà in realtà la risposta che, in base alla normativa attuale, le normative vigenti, in caso di un affidamento di un servizio attraverso gara, servizio che prima veniva svolto in house, non ci sarebbero perdite di posti di lavoro. Quello perché ci sono delle norme che addirittura disapplicano, ad esempio, il Jobs Act, e comunque salvaguardano il posto di lavoro, quello o con la ricollocazione in altre aziende diciamo pubbliche, in altre aziende municipalizzate, o dando l'onere a chi vince la gara di assorbire praticamente il personale. Quello che viene toccato è la parte del salario legata alla produttività, e quindi legata, e ci mancherebbe altro, dico io, nel momento in cui è proprio quello che vogliamo perseguire anche attraverso il meccanismo della gara, e chiaramente i manager, è ovvio, essere garantito. Ricordiamo, rispetto alle gare, però, che già in base al, diciamo, al combinato disposto delle normative nazionali e del regolamento europeo del 2007, già la gara è indicata come modalità prioritaria dell'affidamento. Dopodiché, però, sistematicamente, ad esempio, i comuni, Roma primo tra questi, vanno in deroga. Che l'affidamento in house è quello più economico e più efficiente, affermano il falso sistematicamente. Questa quindi è la maniera per aggirare, cioè, del resto ho documentato stamattina che l'ANM di Napoli, negli ultimi 2 anni, su 104 gare per la manutenzione esterna, solo 4 sono state gare davvero, di cui 2 europee, e 100 sono state diverse forme di affidamento, di negoziazione diretta. Ohimè! Dove si firma? Dove si firma a Roma? Si firma oggi, tra oggi, domani e dopodomani, in 150 posti a Roma. Davvero abbiamo bisogno. Sul sito mobilitiamoroma.it si trova tutto l'elenco. Perfetto, io do appuntamento agli invece ascoltatori da 24, domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva, non mancate!